Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 1 luglio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro ed Uradio TV, sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono sempre Caterina, la conduzione di questo programma che fa da ponte tra carcere e città, e qui con me c'è Antonella Cortese. Buongiorno. Buongiorno Caterina, ciao a tutti. Antonella, oggi è il 1 luglio, quindi? Quindi comincia il nostro crowdfunding. Infatti è dal 18 gennaio, come ormai sapete tutti, che produciamo insieme ad AS Bologna e anche a volontari, associazioni, enti culturali, e teatri, insegnanti, operatori spirituali, produciamo queste puntate sulle tre emittenti che ha citato prima Caterina. Però adesso siamo in estate, e è arrivato il caldo e, come sapete, abbandono, solitudine, imperversano soprattutto nei luoghi di detenzione. Beh, non vogliamo finire qua, vorremmo continuare con il vostro aiuto. Quindi aiutateci, donate sulla piattaforma www.ideaginger.it e cercate il nostro progetto Eduradio e TV. E mentre sicuramente state cercando il nostro progetto su Ginger, io vi racconto la rassegna stampa sociale di oggi. Siamo in Veneto, a Padova e Belluno, terapia in carcere per gli autori di femminicidio. L'articolo è a firma di Andrea Priante sul Corriere del Veneto. E guardate, questa è una notizia molto molto importante, perché ai detenuti condannati per reati di violenza contro le donne viene offerta questa possibilità di partecipare a sedute di trattamento psicoeducativo per fare autocritica. Dobbiamo fare però un passo indietro, anzi un passo attuale. I dati del femminicidio in Italia sono gravissimi: dal 1 di gennaio di quest'anno al 9 maggio sono stati commessi in Italia 91 omicidi con 38 vittime di sesso femminile. Di queste, 34 sono state assassinate in ambito familiare, affettivo, e in 25 casi dal partner o ex partner che sia. E sono dati che emergono dall'ultimo rapporto elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Però c'è una storia che forse ci può aiutare a capire anche questo progetto di autocritica rivolto a persone autrici di reato di femminicidio. Il suo nome è Andrea Donaglio. È il professore di chimica che forse alcuni di voi ricorderanno, che il 6 luglio 2010 massacrò con oltre 60 coltellate la sua ex fidanzata Roberta Vanin. Un femminicidio per il quale ora sta scontando una condanna a 16 anni di reclusione al carcere Due Palazzi di Padova. Ed è chiuso lì dentro, che si è ritrovato a essere uno dei partecipanti a quello che lo psicoterapeuta Antonio Di Don Francesco definisce un ciclo di incontri di tipo psicoeducativo, durante il quale si parla sì degli effetti che la violenza ha sulle vittime, ma anche di come nasce l'aggressività. È molto importante parlare di queste cose, ma qual è l'obiettivo di questi incontri? L'obiettivo è difficilissimo, è arrivare al punto che l'autore degli abusi ne comprenda le dinamiche, scoprendo così che è possibile interpretare un modello diverso di maschilità. E come spiega lo stesso Donaglio, attraverso quegli incontri si trova la conferma dell'importanza basilare di saper gestire le proprie emozioni. Senza sviluppare questa capacità, lui dice, prima o poi si rischia di anche di finire non solo in forme di violenza, ma anche di autolesionismo. Inoltre voglio dire che al carcere Due Palazzi sono già 3 anni che ai detenuti, specie quelli che scontano condanne per femminicidi e reati di maltrattamenti in famiglia, viene offerta l'occasione di partecipare a sedute di trattamento psicoeducativo. Da quest'anno il servizio si è allargato anche al carcere di Belluno e sono state coinvolte più professionalità in gioco per coinvolgere sempre più persone partecipanti. Senti, ma i detenuti riescono a indagare anche le ragioni della loro violenza, che poi forse è la cosa più importante? Ma allora ti rispondo citandoti Donaglio, che dice che il suo atteggiamento partiva da una superbia intrinseca che in realtà mascherava una insicurezza e una carenza di autostima. Il percorso funziona così, che ciascuno confida le proprie ragioni a tutti gli altri in una sorta di terapia di gruppo, e poi, guidati da psicologi e operatori, i detenuti ascoltano altri detenuti affrontando anche le confessioni più intime. Questo per ritrovarsi poi ad arrivare a delle definizioni anche di quelli che sono i sentimenti che li hanno portati a quel punto di massima violenza. Bisogna anche aggiungere però che serve ancora molta, moltissima strada, perché quello della violenza sulle donne è un fenomeno trasversale. E pensate che in carcere per questo reato vi finiscono ragazzi poco più che maggiorenni, pensionati, laureati, semianalfabeti. Per questo è trasversale, va a colpire, non ci sono categorie definite, va a colpire ogni tipo di persona in realtà. E però il dato che forse più ci rassicura è il fatto che il 90% di chi accetta di partecipare continua a mantenere un comportamento non violento anche dopo la scarcerazione. Questa mi sembra una buona notizia. E, Caterina, Rolling Stones? Sì, restiamo con i Rolling Stones e stacchiamo un attimo, ascoltiamo Brown Sugar. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro e Eduradio TV. Parliamo con te, Antonella, di mutilazioni genitali femminili, che ora sono in calo in Africa e Liberia, vero? Parliamo di questo importantissimo argomento perché sappiamo che le mutilazioni genitali femminili sono pratiche devastanti, sia dal punto di vista fisico e psicologico, a cui tra l'altro sono sottoposte almeno 130 milioni di donne. E proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che 3 milioni di bambine ne siano a rischio ogni anno, anche se, come dicevamo, si sta registrando un progressivo calo degli interventi, per fortuna. E parliamo di queste pratiche tradizionali che in realtà non hanno alcuna finalità terapeutica, ma vengono considerati riti di passaggio all'interno delle comunità per preservare la verginità prima del matrimonio e la fedeltà coniugale. Questi interventi possono ledere fortemente la salute psichica e fisica delle bambine e delle donne che vi vengono sottoposte. Infatti poi possono soffrire per tutta la vita di forti dolori, problemi mestruali, avere complicanze durante il parto. Tra l'altro la maggior parte delle vittime muore per via di emorragie o infezioni durante e dopo le pratiche rituali. E come sai, Caterina, l'Africa è di gran lunga il continente in cui questo fenomeno delle mutilazioni genitali femminili è più diffuso, con 91,5 milioni di ragazze di età superiore ai 9 anni vittime di questa pratica e circa 3 milioni di altre che ogni anno si aggiungono al totale. Una ragazza e una donna su due in Liberia ha subito mutilazioni genitali femminili. E la Liberia rimane uno dei pochi paesi africani a non aver bandito del tutto la pratica. Infatti, nel distretto nord-orientale della contea di Nimba va delineandosi tuttavia un cambiamento interessante, per fortuna, sostenuto da una campagna di formazioni delle Nazioni Unite che si chiama Spotlight Initiative. E qual è la novità promossa per limitare questa pratica? Guarda, diverse persone direttamente implicate proprio nell'esercizio delle mutilazioni, perché è anche una professione, ci sono persone che operano letteralmente, queste donne, stanno accantonando la pratica per dedicarsi ad altre attività, tra cui l'agricoltura, grazie al percorso formativo e informativo avviato con Spotlight. E sul sito della campagna, che fa capo appunto alle Nazioni Unite e in particolare alla vice segretaria generale Amina Mohamed Nakema, è riportata la testimonianza di una donna di 54 anni che si chiama Kema Dan, che dopo essere stata sottoposta a una formazione di tipo imprenditoriale, grazie appunto a Spotlight Initiative, e aver imparato ovviamente a coltivare colture da reddito come manioca, mais, pepe, aglio, angurie, cetrioli, fagioli, ha deciso di abbandonare le mutilazioni, proprio diciamo la professione, per concentrarsi proprio sull'agricoltura. E le sue parole sono queste: noi praticanti tradizionali insegnavamo alle ragazze come comportarsi in presenza di persone anziane, intrecciando i capelli ed essendo modeste, dice Dan. Oggi non pratichiamo più le mutilazioni genitali femminili perché ci siamo resi conto che non è necessario. Ora ci stiamo concentrando sull'agricoltura e sul commercio. Un aspetto che viene spesso sottovalutato è che le mutilazioni genitali vengono praticate anche perché rappresentano una fonte di reddito. Ed eradicarle vorrebbe dire lasciare sul lastrico molte persone. Proprio per questo si lavora su questi programmi, diciamo, di riabilitazione e di proposta di di fonti di reddito alternative. E allora in quanti stanno sfruttando l'occasione di cambiare lavoro e quindi di limitare questa pratica altamente distruttiva e anche lesiva nei confronti delle persone? Fino a questo momento sono stati 300 i praticanti tradizionali che hanno beneficiato nell'ambito dell'iniziativa Spotlight. In Liberia le mutilazioni genitali femminili sono state vietate solo per un anno, Caterina, nel 2018, quando c'era la presidentessa Ellen Johnson Sirleaf, che aveva firmato una disposizione esecutiva, la numero 92, che bandiva temporaneamente la pratica sulle minori di 18 anni. Poi però nel 2019 la Liberia ha approvato una legge contro la violenza sulle donne, ma il riferimento alle mutilazioni è stato stralciato. E chi si oppone alla pratica riceve minacce e ritorsioni. Grazie Antonella, alleggeriamo con una canzone, perché certamente hai parlato di un argomento importantissimo, ma è anche doloroso ascoltarlo, sapere che tante persone hanno sofferto questa pratica. Quindi rimaniamo con Fatumata? Sì, rimaniamo in Africa, rimaniamo in Mali con Fatumata Diawara. Ascoltiamo proprio Fenfo, il brano che ha dato nome all'album. La traduzione è Have Something to Say, è qualcosa che devo dire, ho qualcosa da dire. Oh, dove sudo, o dove tledo. Rieccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro Edu Radio. Abbiamo con noi sempre Elisa Mauri, che è già intervenuta sul nostro programma, psicologa e autrice di una tesi di laurea sul fenomeno dell'autolesionismo in carcere. Buongiorno e bentornata. Ciao Caterina, grazie. Allora, come mai hai scelto questo tema dell'autolesionismo in carcere come argomento della tua tesi, per prima cosa? Sì, allora, devo dire che appunto io ho fatto tirocinio in carcere dopo post lauream e ho avuto la fortuna di entrare in un gruppo di professionisti che stavano già lavorando, comunque si stavano già interrogando attorno al fenomeno dell'autolesionismo in carcere e lo stavano, diciamo, un po' osservando, quantomeno in maniera qualitativa, attraverso un loro progetto nel quale appunto io sono stata inserita. Diciamo che appunto tutto è nato poi dall'intenzione davvero di fare qualcosa, no? Di questo lavoro di osservazione che era stato fatto, e quindi io ho scelto, visto che dovevo fare la tesi del secondo anno di specializzazione, ho scelto un po' appunto di riportare quelle che erano state un po' le esperienze, le domande, le riflessioni e gli approfondimenti fatti anche con loro che comunque, cioè i miei tutor hanno comunque 20 anni di esperienza, insomma, di lavoro in carcere come psicologi, quindi comunque l'obiettivo principale era quello un po', diciamo, di unire teoria e pratica e un po', mi sento di dire, di svecchiare la concezione dell'autolesionismo in carcere, che è un fenomeno sicuramente di lunga data ma anche poco approfondito paradossalmente in letteratura, e rispetto al quale, ecco, io credo che bisogna un po' considerare il fenomeno dall'inizio alla fine in tutta la sua complessità, e quindi il mio tentativo è stato un po' questo. Nella tua tesi tu fai anche un'analisi molto dettagliata attraverso i riferimenti a Goffman, anche a Foucault, alla nascita dell'istituzione totale carcere, e la scelta di accostare il concetto di istituzione totale all'autolesionismo sembra farci intuire che resti soltanto il corpo, cioè la nostra corporeità, sia come territorio sia come luogo dove agire una propria libertà e anche autodeterminazione. Raccontaci come sei arrivata tu a questa associazione. Allora, vabbè, prima di tutto, tramite l'osservazione un po' comunque dell'esperienza di tirocinio che ho fatto e dai confronti, come dicevo prima, con questi tutor e della loro esperienza a riguardo, ma poi ovviamente leggendo, come dicevi tu, Goffman e Foucault, che parlano dell'istituzione totale e descrivono quali sono i meccanismi dell'istituzione totale, appare proprio chiaro, no? Ecco, teoria e pratica dicevano sostanzialmente la stessa cosa. E nella mia tesi, tra l'altro, c'è un'intervista che io ho fatto anche insomma, ad una persona che ha lavorato per lungo tempo in carcere come agente di polizia penitenziaria, effettivamente anche la sua testimonianza concorde comunque, diciamo, con la tesi che io sostengo appunto nel mio lavoro. Partiamo dal fatto che l'istituzione totale, e questo lo dicono magistralmente Foucault e Goffman, sostanzialmente erode il sé di una persona, cioè ci sono una serie di meccanismi propri dell'istituzione totale che fanno sì che piano piano alcuni degli strumenti che servono a ciascuno di noi per mantenere viva la propria identità psichica e anche sociale vengono piano piano appunto erosi, vengono tolti e... quindi effettivamente, come dicevi un po' tu, il corpo sembra essere proprio l'unico terreno in cui, cioè, che ancora appartiene all'individuo e sul quale, qui prendo appunto il fenomeno dell'autolesionismo, ma visto da un punto di vista antropologico, secondo le parole di un antropologo molto famoso che è Le Breton, sostanzialmente appunto l'autolesionismo diventa una forma di autoguarigione, perché diventa una forma, un modo per avere controllo su di sé e anche sull'ambiente circostante. Grazie Elisa, lanciamo a metà della nostra intervista una canzone, lanciamo I Soliti di Vasco Rossi, a tra poco. No Noi siamo i soliti, quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo vivi quasi per miracolo, grazie agli interruttori. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare. Siamo liberi, liberi, liberi di sbagliare. Siamo liberi, liberi, liberi di sognare. Siamo liberi, liberi di ricominciare. Siamo i soliti, sempre così. Siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato. E rieccoci, bentornati, sempre su Liberi Dentro. Siamo sempre con Elisa Mauri, autrice sulla tesi di laurea sull'autolesionismo in carcere. E un altro tema che sembra veramente centrale nella tua riflessione è quella della mortificazione da parte del dispositivo carcerario. Quindi una mortificazione del tempo, dello spazio e anche della biografia, delle proprie vite, ma anche del linguaggio, che spesso è infantilizzante. Faccio per esempio l'esempio delle domandine cosiddette, no? E tu cosa intendi per questo, per questa infantilizzazione? Allora, torniamo un po' sicuramente a Goffman, no? Che poi appunto scrive molto bene quali sono i dispositivi che utilizza l'istituzione totale, appunto, come dicevo prima, per erodere il sé di un individuo. E sostanzialmente queste modalità di cui si avvale l'istituzione totale riguardano, come dici tu, anche la comunicazione, che in carcere avviene in maniera particolare. Però queste modalità comunicative pongono la persona detenuta, generalmente una persona adulta, in una condizione sostanzialmente di dipendenza, dove deve chiedere il permesso per fare qualsiasi cosa, e questo è inusuale per un individuo adulto, perché generalmente questo avviene per un bambino, e quindi con questo si intende infantilizzazione, no? Cioè una regressione a un livello evolutivo più basso. In più, questa dipendenza comporta anche per le persone comunque l'essere esposta alla possibilità di un rifiuto oppure alla mancanza di ascolto. Quindi mi vengono in mente magari dei detenuti che urlano dalla propria cella una stessa richiesta anche per 10 minuti, però senza ricevere una risposta, e questo è un dato di realtà. Grazie ancora, l'argomento è lungo, quindi torneremo con te in una prossima puntata. Ora un'altra canzone, sempre rimaniamo con Vasco Rossi, quindi abbiamo parlato di linguaggio e lanciamo Senza Parole. Alla prossima, grazie Elisa. Grazie. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore e non ho più pensato a tutte queste cose. Ben ritrovati, abbiamo avuto ai nostri microfoni la nostra psicologa Elisa Mauri a proposito di questa tesi di laurea sull'autolesionismo in carcere. E noi fra poco ci ridiamo appuntamento con le rubriche Oggi parliamo di, dove avremo i dialoghi sulla cittadinanza. E quindi seguiteci e se potete sosteneteci con il crowdfunding fino a fine di luglio, lo trovate su www.ideaginger.it, il progetto si chiama Eduradio e TV. Ricordo ai nostri ascoltatori e teleascoltatori di iscriverci all'indirizzo postale redazioneliberidentro@gmail.com oppure all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna. Un saluto da tutta la redazione Eduradio, soprattutto da me, Antonella Cortese, e dal nostro Pasquale Pitagnello al montaggio di queste puntate. Grazie, a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.